2024 di Enrico Pagliarini. Questa è una puntata speciale di 2024, bentornati o benvenuti se non conoscete questo programma che normalmente va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30. Questa, come dicevo, è una puntata speciale in occasione di SMAU, SMAU Milano, la tappa milanese che è la più importante. SMAU è diventata una manifestazione sempre dedicata all'innovazione, alla tecnologia per il business, ma anche sempre più un appuntamento con l'innovazione che parte dal basso, dalle start-up. Bene, dicevo, questa è la tappa milanese, iniziata ieri, proseguita oggi e che si concluderà domani, tra l'altro con alcuni appuntamenti finali per aggiudicare alcuni premi importanti. Ma SMAU si è trasformato negli ultimi anni in una serie di appuntamenti itineranti lungo tutto il territorio nazionale, quindi molte tappe in giro per l'Italia, a conclusione in questo autunno a Milano, come sempre accade. In questa puntata analizzeremo il fenomeno startup, perché uno degli argomenti di cui si parla molto a SMAU da ormai qualche tempo, ormai da qualche anno, sono le startup. C'è molta voglia di innovazione, di nuove imprese, anche sicuramente la crisi ha contribuito a questa voglia che in alcuni casi è indotta. Il sistema si sta trasformando, stiamo maturando con molta lentezza, ci sono ancora naturalmente dei problemi. Allora, iniziamo con alcune considerazioni, alcuni numeri che sono stati presentati proprio nella giornata inaugurale di SMAU dagli osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e da Italia Startup, che è un'associazione che serve per promuovere l'impegno di tutta l'industria del governo, insomma di vari attori, per far crescere le startup. Alcuni numeri e alcune considerazioni, partendo anche da che cosa significa startup high tech, ad alta tecnologia, con Antonio Ghezzi, che è il direttore dell'osservatorio startup high tech del Politecnico di Milano. Perfetto, allora sicuramente la definizione è molto vasta. Noi abbiamo cercato di ricondurci a dei macro settori, quindi ad esempio startup nell'ambito information and communication technology, quindi tecnologia, nell'ambito life science, quindi tutte le biotech in ambito medico e medicale, poi clean tech and energy, cioè comunque una crescente attenzione anche allo sviluppo dell'energia anche in ottica green, quindi di fatto in ottica di salvaguardia ambientale. Quindi questi sono i macro comparti dove noi siamo andati a mappare le startup finanziate. Quindi noi ci siamo concentrati su quelle startup che hanno ricevuto dei finanziamenti dal 2012 fino al 2015. Questa è una popolazione che, se è paragonata ad altre nazioni europee, poi lasciamo perdere il benchmark con gli Stati Uniti, è ridotta ma viva, quindi c'è un fenomeno in grande fermento. Sono 364 in totale le startup finanziate, poi chiaramente è un flusso, quindi alcune nascono, altre muoiono, e noi cerchiamo di monitorarle a livello complessivo e monitoriamo anche i finanziamenti che appunto ricevono. Ecco, a proposito di finanziamenti, voi avete calcolato quanti sono i soldi che arrivano a queste startup. Poi naturalmente di startup in realtà ce ne sono tantissime, parliamo di centinaia e addirittura di migliaia, però vengono finanziate non da investitori istituzionali, da investitori che fanno questo di mestiere, quindi voi calcolate proprio solo questo mondo, che è sicuramente parziale, però è significativo di quello che sta succedendo. Quanti soldi girano? Di fatto noi abbiamo appunto un focus sugli istituzionali, quindi i fondi ad esempio di venture capital, ma cerchiamo anche di stimare la componente non istituzionale, quindi ad esempio i business angel, gli individui che hanno capacità di spesa e quindi capacità di investimento individuale, oppure i family office, le grandi famiglie che magari in maniera più o meno esplicita finanziano. I soldi che girano cominciano ad essere significativi, si parla nel 2014 di un consuntivo di 120 milioni di euro, che è stato più o meno equamente finanziato dagli istituzionali e dai non istituzionali, e la nostra stima per il 2015, quindi abbiamo calcolato i primi 9 mesi e abbiamo stimato gli ultimi 3, porterà gli investimenti a 133 milioni. quindi di fatto una crescita rispetto al 2014, e la faranno da padrone soprattutto i non istituzionali, quindi appunto gli investitori privati oppure i club deal, la rete di angel, i cosiddetti business angel, appunto investitori privati. E però abbiamo anche delle buone prospettive di crescita per il futuro, perché anche gli istituzionali, che hanno visto una diminuzione nel corso degli anni, dal 2013, stanno raccogliendo capitale, raccolgono investimenti, quindi li abbiamo sentiti uno per uno, e loro avranno la possibilità di investire dal 2016 in avanti. Senti, perché abbiamo dei numeri così bassi rispetto ad altri paesi? Perché sappiamo che addirittura la Spagna, che non è un paese che viene in mente subito per il mondo startup, ha 1 miliardo di finanziamenti ogni anno. Sì, è vero, di fatto noi consideriamo buona dinamicità, però poi quando paragoniamo il dato al benchmark europeo, questo dato è più basso, 1/10 di Francia e Germania e la metà della Spagna. Le ragioni sono tante, sono diverse con cause. Sicuramente è un tema anche legato al fatto che il nostro ecosistema è embrionale, cioè le start-up o comunque l'innovazione tecnologica è qualcosa che sta prendendo piede negli ultimi anni a livello sistemico. È necessario fare massa critica. Non è bene citare gli Stati Uniti come termine di paragone, perché sono cifre talmente alte che spaventano, però è anche vero che bisogna prenderli come best in class, di fatto andare a cercare di copiare qualcuna delle loro pratiche. Loro fanno molto sistema, hanno il tema della cultura imprenditoriale che prescinde anche dal livello di educazione, per esempio, quindi di Zuckerberg, di Steve Jobs, noi ne abbiamo meno, perché anche il nostro rapporto cita come i venture capital preferiscono investire sui founder che siano maturi in termini di età e anche in termini di titolo di studio. Questa è una cosa molto importante, però non è l'unica, è la bontà dell'idea che effettivamente deve essere premiata, e noi dobbiamo imparare su questo. Altre cose che dobbiamo imparare è il tema del trust, della fiducia di ecosistema. Intervistando nella Silicon Valley ti citano tutti questo tema della fiducia. Noi lavoriamo insieme perché sappiamo che abbiamo un obiettivo complessivo. Forse in Italia a livello culturale dobbiamo ancora muoverci da questo punto di vista. E questa è la fotografia scattata dalla School of Management del Politecnico di Milano, da uno degli osservatori sul mondo della tecnologia, nel particolare quello sulle startup high tech. Poi ascolteremo alcune considerazioni di alcuni esperti che ci hanno dato la loro chiave di lettura sul perché in Italia ci sono ancora pochi investimenti sul mondo delle start-up, quali sono i problemi, ma anche alcune considerazioni sul fatto che la qualità delle start-up in Italia è comunque una buona qualità, di buon livello. Le ascolteremo tra poco. Adesso ci buttiamo subito all'interno dei padiglioni di SMAU per ascoltare le voci di alcune start-up che sono state presentate, che si presentano in questi giorni. Sono tantissime, di settori diversi. Io ne ho scelte alcune, anche per motivi di tempo, altre non sono riuscito a raggiungerle, ma magari succederà domani o nei prossimi giorni, guardando anche i numeri e le liste di start-up che sono state presentate. Iniziamo dal mondo dei trasporti, perché sicuramente il mondo dei trasporti è uno di quei mondi che può ottenere molta efficienza dalla tecnologia. La tecnologia può fare ancora moltissimo in un mondo che si è evoluto molto poco. Pensiamo ad esempio, lo abbiamo detto tantissime volte, al trasporto urbano. Nelle città sono successe molte cose proprio grazie alla tecnologia e agli smartphone, il bike sharing, il car sharing, tutte le applicazioni per i taxi, e ancora, dicono gli esperti, ma io credo molto in questo, non abbiamo ancora visto nulla. Molto succederà nei prossimi anni. Nel trasporto di persone, appunto, sono successe già molte cose. Che cosa si può fare nel trasporto delle merci, ad esempio? Ci sono società tecnologicamente avanzate che lavorano già sul mercato per cercare di mettere in competizione e in collegamento chi trasporta merci con chi deve trasportare merci. Ci sono delle borse che servono per rendere più efficiente il trasporto, per riempire ad esempio camion che girano vuoti. Una idea ce l'hanno avuta i ragazzi di Macingo. Ne abbiamo parlato con Samuele Furfaro, che è uno dei fondatori di Macingo. Nella nostra azienda di famiglia, che opera nel settore delle costruzioni in acciaio, in Calabria, Polistena, acquistavamo della merce, per esempio, da un fornitore di Milano, e poi dovevamo attaccarci al telefono per cercare un trasportatore disponibile ad effettuare quel carico. E il lavoro in che cosa consisteva? Il lavoro dell'organizzazione del trasporto? Dovevamo appunto attaccarci al telefono e aspettavamo giornate intere semplicemente per avere una quotazione. E poi i trasportatori ci rispondevano tutti allo stesso modo, ci dicevano: guarda, io purtroppo non posso andare a Milano prima di 2 settimane, oppure ci posso andare domani ma devo andarci appositamente per te, quindi devi pagarmi il carico intero, con dei costi irragionevoli per l'azienda. Da qui abbiamo pensato: su internet si acquista di tutto, si acquistano le assicurazioni, si acquista un passaggio in auto come con BlaBlaCar, piuttosto che un post in hotel su booking.com, perché non cerchiamo di trovare un sistema per vendere trasporti, merci online? Perché uno dei problemi è che ci sono anche un sacco di camion che viaggiano o vuoti oppure a metà carico. Infatti esistono proprio delle statistiche ufficiali della Comunità Europea che si sta impegnando proprio questo problema, che dice: attenzione, il 50% dei mezzi di trasporto che vediamo sulla strada sono semivuoti o addirittura completamente vuoti, quindi anche i trasportatori hanno l'esigenza di riempire quel loro spazio extra a disposizione sui loro mezzi. Quindi voi avete fatto questa piattaforma che si chiama Macingo. Perché si chiama Macingo? Allora, Macingo.com viene dalla fusione, l'interazione di due termini, Match and Go. Volevamo, però siamo in Italia, volevamo un nome italiano, facile. Originariamente ci chiamavamo Share Your Transport, un po' inglese, che però i trasportatori facevano fatica a capire. Sì, Macingo è facile, Macingo è facile. Poi c'era il dominio macingo.com. Che cosa fa questa piattaforma? In estrema sintesi, in estrema facilità, macingo.com è un sito che mette in contatto clienti, ovvero aziende che hanno bisogno di un trasporto, in particolare le piccole e medie aziende che devono per esempio trasportare dei bancali di porte e finestre piuttosto che delle travi di ferro, comunque merci ingombrante. Si rivolge anche ai privati che devono effettuare per esempio un trasporto di un motorino, di un'auto, devono effettuare un trasloco, oppure hanno acquistato l'auto su un sito, su un e-commerce, e poi devono organizzare un trasporto. Quindi da una parte abbiamo i clienti e poi ci sono i trasportatori, ovvero soprattutto quei padroncini che hanno ancora dello spazio a disposizione sui loro mezzi e che possono mettere a disposizione attraverso il sito. Quindi il sito mette in contatto clienti e trasportatori e permette l'acquisto del trasporto direttamente online. Ci piace dire che non vendiamo semplicemente trasporti, ma vendiamo un servizio. Organizzare un trasporto è stressante. A noi ci piace dire: al trasporto ci pensiamo noi, tu rilassati. Certo, poi è un servizio che serve anche per rendere efficiente il sistema, quando naturalmente si evolverà. Senti, la reazione delle aziende, dei trasportatori e dei consumatori finali, perché noi lottiamo, tutti quelli che hanno capito i vantaggi che può portare la tecnologia in tutti i settori, lottano nel far capire e comprendere alle aziende quanto è efficiente utilizzare la tecnologia, però non tutte le aziende lo capiscono. Infatti ci siamo dovuti fronteggiare con le aziende in modo diverso rispetto ai consumatori, nel senso che all'azienda non bastava vedere il sito, dovevamo recarci in azienda e spiegare effettivamente come funzionava. Solo lì, in quel momento, avevano contezza dell'utilità. Hanno visto, hanno fatto dei test, hanno visto che risparmiavano, ma soprattutto la cosa fondamentale, che in questo momento per le PMI italiane è indispensabile, il risparmio del tempo, ovvero anziché avere una persona dedicata alla logistica che deve mettersi al telefono, contattare i trasportatori, inserire una richiesta di trasporto sul nostro sito significa spendere non più di qualche secondo e ricevere le richieste direttamente sulla tua email e poi accettare quella che a te conviene di più. Quindi le aziende che con fatica siamo riusciti a coinvolgere sono strafelici di utilizzare il nostro servizio. Per i trasportatori possiamo dire assolutamente la stessa cosa, perché spesso è qualcosa che purtroppo succedeva e continua a succedere: i trasportatori stanno delle notti fuori casa in attesa che qualcuno li contatti per fare dei trasporti, perché diversamente tornerebbero vuoti. Quindi noi stiamo mettendo nelle loro mani, a disposizione, uno strumento che gli permette di riempire il loro spazio a disposizione. Naturalmente lo offrono a prezzi più bassi, ma per loro è tutto di guadagnato. I consumatori invece sono sicuramente le persone più contente, nel senso che adesso la propensione del consumatore è quella di acquistare su internet. Nel momento in cui completano l'acquisto di un'auto, di una moto, di una barca, di un mobile, poi devono organizzare un trasporto. Sì. Stiamo parlando di consumatori che acquistano su siti di seconda mano, sì. Quindi non l'e-commerce classico col quale ti arriva a casa la merce, esatto, già automaticamente. Esatto. Stiamo parlando comunque di trasporti dove non è il semplice pacco che spedisce un corriere, ma diciamo è questo tipo di merce più ingombrante. Ma c'è così tanta richiesta? La richiesta è enorme. L'e-commerce in Italia sta, probabilmente siamo indietro rispetto per esempio agli Stati Uniti, ma l'e-commerce, ci sono dei siti che comunque stanno crescendo a dismisura, fanno dei numeri importanti, circa 2000 transazioni al giorno solo di merce ingombrante. E lì sicuramente il futuro, l'acquisto su internet, è normale che ogni cosa che viene acquistata deve essere poi trasportata, e a quel punto c'è Magingo. C'è un mondo incredibile di gente che compra e vende usato sostanzialmente, giusto? Nella maggior parte dei casi si tratta di merce usata, e l'auto che viene, comunque i numeri che vediamo sull'auto spesso si riferiscono a delle transazioni tra privati di auto usate, e quindi è lì che si va, questa è la direzione. Senti, voi come guadagnate? Noi vendiamo il trasporto attraverso il sito e noi incassiamo una percentuale, una commissione che è variabile a seconda della tipologia di trasporto, una commissione variabile tra il 5 e il 7% mediamente, ma che comunque rende i prezzi estremamente competitivi nonostante la nostra commissione. Dimmi come ti immagini il vostro servizio fra uno, due, fra qualche anno, che cosa cambierà? Ad esempio, oggi non ricevo le quotazioni in tempo reale e anche la disponibilità dei trasporti in tempo reale, sicuramente questa sarà un'evoluzione, però che cos'altro vi immaginate che possa accadere? A parte la vendita diretta sul sito, quindi la quotazione immediata del trasporto e dare la possibilità al cliente di prenotare immediatamente un trasporto, quello che noi ci aspettiamo è un'integrazione totale con i siti di e-commerce, nel senso che attualmente il cliente ha comprato, poi deve andare su un altro sito e insomma organizzare il trasporto. Di sicuro, siccome si va su quella direzione, sugli acquisti online, noi ci aspettiamo che ci sia un'integrazione totale, come adesso succede per i colossi dell'e-commerce, che comunque offrono un servizio di vendita diretta anche del trasporto, consegna a domicilio. Ci aspettiamo che avvenga questo anche per le merci ingombranti, cosa che attualmente non succede. E questa è l'idea di Magingo, startup calabrese che già offre questo servizio, una delle tante startup che sono state portate a Milano da Calabria Innova. Tra l'altro lo studio di Radio 24 si trova proprio lì, di fronte a questa area dedicata alla Calabria. Dalla Calabria ci spostiamo alla Toscana con l'esperienza di Massimiliano Trobiani, che è il fondatore di Asso 360, una piattaforma di gestione per le associazioni. È un gestionale per associazioni perché nasce un'esigenza. Sono il vicepresidente di una squadra di calcio, quindi ho detto perché nel mio tempo libero dovrei così preoccuparmi in caso di sanzioni nelle società sportive, visto che ce ne sono state molte negli ultimi anni. Quindi perché serve un gestionale per una società sportiva? Ci sono molti adempimenti, perché le leggi dello Stato facilitano la fiscalità delle società sportive, in particolare delle associazioni. Però in caso di controllo ovviamente bisogna render conto di aver fatto le cose giuste. Quindi le leggi sono molto particolari, sono diverse da quelle delle imprese normali, quindi noi abbiamo studiato tutta la normativa che riguarda quelli che si chiamano enti non commerciali e abbiamo strutturato delle funzioni che agevolano render conto a tutti questi adempimenti. Quindi la burocrazia è piuttosto complessa. Sì, è molto complessa, assolutamente. E questa è una piattaforma basata sul web che voi vendete su abbonamento? Sì, assolutamente sì. È una piattaforma totalmente in cloud, non è installabile sul proprio PC e permette anche di condividere il profilo e quindi la contabilità con il commercialista o con gli altri membri del consiglio direttivo o con la segreteria, per esempio nel caso di una palestra, per esempio. Ed è un abbonamento? Sì, è un abbonamento che può essere pagato mensilmente a 9,90 al mese per il modulo di contabilità o a 19,90 per il modulo di contabilità più il modulo gestionale. Quindi per gestire sia le ricevute, per esempio per le quote pagate dai soci, o il libro soci, il libro IVA e tutte quelle cose che purtroppo vengono chieste Ce l'avete già un cliente? Beh, uno, almeno la tua associazione, sì. Quella è stata la prima, ovviamente, sì. Quella su cui facciamo dei test. Io dico sempre, quando mi fanno questa domanda, che il cliente più a sud ce l'abbiamo a Caltagirone e il più a nord a Como. Ma senti, fino ad oggi, fino a ieri, come si faceva per gestire la contabilità di un'associazione no profit? Beh, solitamente si utilizza, perché in molti casi non è molto comune utilizzare dei tool ICT nel no profit, quindi si utilizzavano dei fogli Excel, si andava alla ricerca in internet di vari documenti da un sito o dall'altro, e quindi da mille punti diversi si accedeva per gestire la contabilità di un'associazione. Ora noi quello che abbiamo fatto è, da qui il nome ASSO 360, perché vogliamo gestire a 360 gradi un'associazione, e quindi è il portale che devi utilizzare, è l'unico punto che ti serve per gestire la tua associazione. Quante sono le associazioni in Italia? Quindi ti faccio anche un po' di analisi del tuo mercato potenziale. Sì, noi abbiamo preso come dato quello dell'Istat del 2011, che c'era uno studio proprio sulle associazioni. Associazioni senza personalità giuridica alle quali ci rivolgiamo sono 200.000 in Italia, di cui circa 120.000 sono quelli iscritti al CONI, quindi associazioni sportive dilettantistiche. Beh, ovviamente l'analisi del mercato potenziale è molto importante per una startup. Non sempre uno può o ha le capacità per investire in un grande mercato, a volte le startup sono anche startup di nicchia molto particolari. A Smao effettivamente ce ne sono tantissime. La logica è anche quella di portarle all'attenzione delle aziende tradizionali, perché A, possono investire, B, possono diventare clienti, C, possono prendere spunto dalle tecnologie, dalle idee, dalle novità. Adesso ci spostiamo sulle montagne del Trentino Alto Adige con Carlo Pasquini, che è fondatore di SkiPass Go. Oggi lo SkiPass lo si vende prevalentemente nel giorno in cui viene consumato, comunque poco prima. Questo settore, come molti altri, naturalmente non ha ancora usato le logiche, le tecnologie per fare quello che da tempo fanno le compagnie aeree o gli alberghi. Beh, questo è uno degli obiettivi di SkiPass Go. SkiPass Go è la piattaforma online specifica per i comprensori sciistici. È una piattaforma che abbiamo sviluppato pensando alle esigenze appunto delle stazioni sciistiche, e che li agevolano nella loro attività online e nella loro attività di distribuzione online. Possiamo pensare che è un po' come per il mondo degli alberghi, le piattaforme che vendono stanze, fate un po' di più in realtà. Assolutamente sì, le logiche sottostanti sono le stesse, quindi andare ad abilitare appunto al mondo online, a quello che sono le potenzialità del mercato online, anche i comprensori sciistici. Situazione attuale e situazione futura, o anche in alcuni casi fra una settimana succederà, insomma, quello che voi riuscite a trasformare. Sì, beh, la situazione attuale dei comprensori sciistici non è così emancipata. Un esempio su tutti: pensa al listino prezzi che ad oggi viene pubblicato sui siti internet delle stazioni sciistiche. Consta in un PDF, il più delle volte con diverse decine di note o di appunti a piè di pagina, dove un utente, magari non esperto della stazione sciistica, trova veramente difficoltoso a recuperare il prezzo dell'offerta che interessa. Bene, noi già in questa fase riusciamo a migliorare e ottimizzare la fruibilità di questi prezzi tramite ad esempio dei widget che chiamiamo calcola lo SkiPass, dove l'utente agevolmente sceglie il tipo di tessera, la data, compone il proprio carrello e il sistema in automatico calcola il prezzo esatto. Quindi molto semplice: io vado invece sul PDF e devo guardare adulto, bambino, ragazza, magari altre fasce d'età, media stagione, bassa stagione, lunedì, venerdì, giornaliero, pomeridiano, non ci capisco più niente, soprattutto se magari ho una famiglia, quindi devo fare le varie combinazioni. In questo modo direi, senza offesa, un po' banale, no? Assolutamente, ma le idee migliori sono quelle più semplici. Però fate anche qualcosa di più complicato: big data, cioè? Esatto, dietro questi strumenti apparentemente semplici, a dire la verità, sono un po' delle spie. Noi le consideriamo delle spie, sia sono generatori di dati. Pensa che questi widget installati su un sito di un comprensorio ricevono migliaia e migliaia, decine di migliaia di iterazioni, il che significa decine di migliaia di dati, quindi big data, termine abbastanza in moda oggi. Noi tutti questi dati li analizziamo, li rendiamo intellegibili e quindi creiamo delle analisi, diamo degli insight, delle metriche ad oggi uniche per quello che è il mercato della neve, che assolutamente servono e sono un indice anche per migliorare poi la gestione della della vendita del prodotto. Sì, mi fai un esempio di cosa può succedere? Cioè la dinamica del prezzo da cosa è influenzata, da come si sposta, si muove? Un nostro paletto è assolutamente la vendita anticipata, l'advance purchase. È un po' quello che succede con le compagnie aeree, quindi spingiamo l'utente ad impegnarsi all'acquisto di un determinato servizio o prodotto in anticipo, quindi di fatto andandosi ad assumere il rischio dell'imprevedibilità del lasso di tempo che intercorre la data di acquisto alla data di utilizzo, e riconosciamo un premio per questo rischio che si assume pari allo sconto rispetto al prezzo di listino. Questo è 2024, uno speciale SMAU in onda questa sera in occasione di SMAU. Continueremo anche domani a parlare di SMAU, parleremo anche dell'arrivo di Netflix, ovviamente dal punto di vista tecnologico, non solo del mercato. Naturalmente anche questa puntata la troverete disponibile sul nostro sito internet, al termine la versione podcast. Come sempre, la nostra versione podcast è l'unico programma di Radio 24 che vi offre contenuti aggiuntivi rispetto a quello che ascoltate in onda. Speciale SMAU, continueremo tra poco a parlare del mondo delle startup, con alcuni esempi di startup, ma non solo, anche con alcune considerazioni di tre esperti che commentano quello che prima abbiamo raccontato con Antonio Ghezzi, cioè alcuni numeri che riguardano gli investimenti, perché va benissimo avere le idee, ma queste idee vanno finanziate e senza investimenti non si va da nessuna parte. Siete all'ascolto di Radio 24, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure potete utilizzare anche Twitter o Facebook, la pagina di 2024 di Facebook. Stiamo parlando del mondo delle startup, un elemento, un ingrediente importante, direi uno dei motori di SMAU. Stiamo facendo questa puntata speciale in occasione di SMAU Milano, la tappa milanese che è iniziata ieri, continuata oggi e continuerà e si concluderà nella giornata di domani. Abbiamo sentito già la voce di alcune startup, di alcuni giovani che fanno impresa, ma poco fa abbiamo sentito anche i numeri che ci raccontano di questo fenomeno delle startup, di queste giovani aziende tecnologiche. Gli investimenti crescono dell'11% e sono arrivati gli investimenti ufficiali, quelli che si possono tracciare da investitori istituzionali, a 133 milioni di euro. Ma se noi confrontiamo tutto ciò ad altri paesi, beh, è praticamente nulla, molto, molto, molto, molto poco. Per quale motivo? Sentiamo il parere di Federico Barilli, direttore generale di Italia Startup. Ma io credo per più motivi. Sicuramente oggi è emerso con grande chiarezza che diciamo gli investitori cosiddetti istituzionali, in particolare i fondi di venture capital, sono ancora, non dico piccoli, ma pochi. Quindi sono di fatto quelli più solidi, sono 5 o 6. Oggi veniva riferito che in Francia sono 50, quindi un rapporto 1 a 10, che guarda caso è anche il rapporto in termini di investimenti in capitale di rischio. Quindi diciamo c'è un numero piuttosto ridotto di investitori in quest'ambito, cosiddetti in equity. Capire come mai sono pochi non è facile. Qualcuno dice che forse sono ancora troppo poche le startup, cioè i prodotti sui quali investire. Secondo me c'è, diciamo, complessivamente nel sistema ancora una scarsa propensione al rischio in generale, o comunque viene ritenuto questo investimento un investimento effettivamente a rischio. Devo dire però che i segnali che sono emersi oggi dicono, se non di una vera inversione di tendenza, ma sicuramente di un cambiamento, perché cominciano a esserci delle best practice, dei casi di successo, cioè di startup che cominciano ad avere un consolidato, che sono come dire, degli apripista rispetto a un ampliamento del fenomeno. Voi avete stimato tra qualche anno di raggiungere 1 miliardo di investimenti. Quanto è complicato raggiungere questo 1 miliardo e quindi arrivare fra qualche anno ad un livello al quale oggi, già oggi la Francia è arrivata? È complicatissimo, ovviamente, però noi siamo convinti del fatto che c'è una leva che ancora quasi non è partita, che è quella del cosiddetto corporate venture o comunque degli investimenti da parte delle imprese, perché poi il nostro è un ecosistema, è un sistema economico fatto da imprese, soprattutto manifatturiere, che stanno cominciando sempre più seriamente a guardare a questo fenomeno delle startup innovative, anche digital per il manufacturing, ma soprattutto startup di prodotto. Quindi è chiaro che se questa leva comincia a muoversi in maniera seria e ci sono tutti i presupposti perché questo accada, allora lì si possono aggiungere cifre importanti e quindi riuscire a raggiungere, magari non nei 3 anni che auspichiamo noi, ma nei 5 o 6, numeri di questa rilevanza. Il paese ha tutte le carte in regola per poterci arrivare. Visto che voi avete un ruolo di anche, chiamiamola, lobby istituzionale per fare pressione sul governo, per dire al governo guarda che un investimento, comunque un'attenzione a questo mondo è importante, qual è il vostro giudizio su questo governo? Il precedente ha fatto alcune cose positive per il mondo delle start-up, certo si può sempre fare di meglio, questo a mio parere non mi sembra che abbia fatto molto, ma il vostro parere qual è? Ma diciamo che un po' di discontinuità c'è stata. Devo dire che il precedente, chiamiamolo governo, in realtà è partito il governo Monti con Corrado Passera, poi ho proseguito diciamo soprattutto lato Ministero dello Sviluppo Economico, è stato fatto un lavoro importante sulla fase più seed, se vogliamo. È che quella iniziale. Iniziale, esatto, cosiddetta di partenza, che indubbiamente è stata favorita da tutta una serie di passaggi che sono stati creati. C'è stata, secondo me, meno attenzione sulla parte viceversa cosiddetta di exit, soprattutto sull'ambito della defiscalizzazione di quando un'impresa o un investitore investe. Sì, qualcosa è stato fatto in maniera particolare sulle persone fisiche, secondo me meno sulle persone giuridiche. Questo è il passaggio che deve avvenire adesso, cioè è necessario che ci siano degli ulteriori strumenti agevolativi per un'impresa che vuole investire e soprattutto agire sul capital gain, perché questo è vero che, come qualcuno ha detto, l'innovazione non si fa per decreto, però diciamo che se ci sono degli strumenti fiscali che agevolano, l'impresa è ulteriormente motivata a muoversi. Questo tradotto significa rendere più appetibile l'investimento in startup, cioè se tu investi in startup io Stato ti riconosco anche una valenza sociale per muovere l'economia, per far lavorare i giovani e quindi ti defiscalizzo, faccio qualche operazione di questo genere. Esattamente questo, proprio di questo stiamo parlando, e siccome abbiamo un settore industriale molto ricco e un patrimonio privato, come è stato detto, molto consistente, per scalfire questa grande montagna e spostarla verso le startup innovative, anche questo dell'agevolazione fiscale può servire. Altro parere di persona assolutamente esperta del settore, del mondo delle startup, Enrico Gasperini, presidente fondatore di Digital Magic, che si occupa tra le altre cose anche di incubare, di accelerare, di fare partire delle buone idee e farle diventare azienda. Che cosa ne pensa Gasperini sulle difficoltà del sistema italiano, soprattutto sul fronte investimenti? Conoscevamo questi numeri lavorando da tanti anni in questo settore e percependo la difficoltà nel far confluire investimenti in questa asset class. Noi abbiamo migliorato sicuramente l'ecosistema favorendo tanti club deal di famiglie industriali o privati o angels all'interno delle nostre startup per farle crescere, far crescere gli investimenti, quindi far crescere il settore. Sappiamo che siamo in un ecosistema che non è e non assomiglia ancora a quelli più evoluti. Siamo a 1/10 degli investimenti della Francia, 1/20 dell'Inghilterra, quindi anche rispetto agli europei e senza andare nella Silicon Valley siamo partiti indietro più tardi, e occorrono comunque a questo punto delle misure abbastanza aggressive per recuperare il terreno, anche perché è un territorio strategico sia per la creazione delle nuove imprese, dei nuovi posti di lavoro nel nostro paese, ma anche per l'innovazione e lo svecchiamento dell'industria nazionale del Made in Italy. Quindi non si può fare senza il digitale. Siccome non si può fare per il nostro futuro, dobbiamo accelerare i tempi delle riforme, di un impegno collettivo e di una diffusione anche nelle imprese, con meccanismi di collaborazione e di cooperazione fra le start-up e le grandi imprese, dei processi di innovazione digitale del paese. Quindi non mancano le idee nel nostro paese, non c'è un problema di anche qualità dei giovani, si dice start-uppari, diciamo, i ragazzi che fondano delle piccole aziende che si basano su un'idea. No, al contrario, c'è un movimento straordinario di start-uppers, quindi di nuclei, di nuovi imprenditori sulla parte digitale, che con grande passione, originalità, capacità creativa e anche mestiere si propongono sul mercato, si mettono in proprio all'uscita dell'università o successivamente, e con tanto entusiasmo provano a fare la corsa e diventare imprenditori. Quindi non ci manca il materiale umano. Io continuo a dire che il capitale umano italiano rimane uno dei migliori del mondo anche in questo settore, e anche nonostante il ritardo del sistema della formazione del paese nel formare i nuovi nativi digitali. Quindi mancano i capitali, o i capitali ci sono ma non riescono poi a trovare una forma per finanziare le start-up? I capitali in Italia ci sono tanti, ci sono quasi 2.000 miliardi di investimenti privati sotto gestione, quindi ci sono i capitali privati. Per tanti motivi i capitali italiani fanno fatica a finire in equity, come si dice. Questo vale in generale per la borsa, che è sottosviluppata. Io ricordo anche che il mercato in borsa delle piccole imprese, dove ad esempio Digital Magix è quotata, che si chiama AIM, quindi che è un segmento di borsa italiana, capitalizza poco più di 2 miliardi contro i 100 dell'equivalente AIM nella borsa inglese. Il 2% rispetto alla borsa inglese. Esatto. Questo dà un'idea di quanto sia difficile far arrivare i capitali gestiti dai nostri gestori sulle piccole e medie imprese che soffrono di liquidità. Immaginiamoci nel capitale a rischio di total loss, quindi nel venture capital, dove tradizionalmente siamo indietro. L'Italia è sempre stato un paese molto orientato al debito, c'è un grosso squilibrio fra debito e equity nelle aziende italiane. Questa cosa adesso sta cambiando anche per la crisi del sistema creditizio, però occorre inventarsi ed essere anche molto aggressivi, norme che favoriscono in tutti i modi e favoriscano anche dal punto di vista fiscale l'investimento nelle piccole imprese, nelle imprese innovative e nelle start-up, perché sono queste che creano il 100% dei nuovi posti di lavoro. Noi abbiamo appena fatto, insieme a alcuni colleghi del settore, un libro bianco che sta molto girando, l'abbiamo presentato una settimana fa a Pisa, che dalla nostra esperienza dà alcune indicazioni su come dal punto di vista fiscale, dal punto di vista delle normative, della gestione di OCR e nel rapporto virtuoso fra imprese più grandi e imprese più piccole, i rapporti di collaborazione, si possa partecipare alla gara, magari anche vincerla in futuro, però perlomeno darci come sistema le condizioni per partecipare. Nella nostra piattaforma, col duro lavoro di tutti noi e con gli alleati, ad esempio con la piattaforma di Talent Garden, che è il più grosso network di campus nel paese, dove ci sono 1.500 talenti che ospitiamo, oppure con alcune istituzioni eccellenti nel campo della finanza come Tamburi, abbiamo costruito un sistema per aiutare a fare in modo che questo processo di finanziamento, di investimento sull'azienda avvenga attraverso dei club deal con tante famiglie italiane. Questa cosa sta riuscendo, però sarebbe enormemente facilitata e favorita da norme che rendano più favorevole e più robusto questo ecosistema. Prima di tornare all'interno dei padiglioni di SMAU per ascoltare altre tre voci di altre start-up, altre idee che tentano di diventare aziende che possono avere ricavi, che possono assumere persone, che possono beneficiare anche un territorio. Un ultimo parere è quello di Emil Abirashid, è il direttore di Startup Business che da parecchi anni si occupa proprio e solo di startup e quindi di accelerazione di impresa. Emil Abirashid anche all'interno di SMAO ha un ruolo molto importante, quello di selezionare le startup, quello di fare gli speed pitch, quindi le presentazioni molto veloci di startup sono molto interessanti. I ragazzi vanno sul palco, hanno un minuto e mezzo, perché come dice Emil, se non sei in grado di dire quello che fai in 90 secondi vuol dire che non lo hai capito nemmeno tu, e quindi di startup Emil ne ha viste centinaia, migliaia, forse non milioni, ma migliaia sicuramente sì. Esiste ancora un sistema un po' piccolo, un po' chiuso su se stesso, c'è poco intervento dal punto di vista degli investitori internazionali. Stiamo vedendo qualche segnale dal punto di vista della cosiddetta open innovation, cioè del fatto che le imprese stanno incominciando a guardare le startup, ma non sempre come investitori, più che altro come interesse di tipo industriale. Siamo ancora un po' periferia dell'impero. Se tu consideri che secondo il report del Dow Jones sul venture capital in Europa nel secondo trimestre 2015 sono arrivati 2 miliardi, cioè i venture capital europei ne hanno raccolto 2 miliardi di euro, e il più grande di tutti, Index, da solo 630 milioni di euro, in un anno l'Italia 133 milioni, cioè siamo, è un altro campionato. Servono delle misure molto forti per far crescere la credibilità dell'ecosistema italiano. Bisogna, secondo me, essere molto più internazionali, molto più trasparenti, fare in modo che i nuovi fondi che arrivano a operare da noi o che decidono di aprirsi in Italia non debbano aspettare 6 mesi per avere la clearance da parte della Banca d'Italia, come succede oggi, una roba che in Francia ci vogliono 3 settimane, in Lussemburgo lo fa in 2 giorni. E questi sono tutti sistemi che frenano ancora sia l'interesse da parte degli investitori stranieri e europei, che ripeto sono molto ricchi, sia da parte di una crescita di attenzione da parte degli investitori domestici, cioè italiani, verso questo fenomeno. Quindi, a tuo parere, il problema è soprattutto la pubblica amministrazione, intesa come governo, che non recentemente si è un po' fermato e non prende nessun tipo di provvedimento a favore dell'investimento in aziende innovative, in start-up, ma anche del sistema finanziario. C'è stata la Banca d'Italia, e non solo la Banca d'Italia, dovrebbe darsi un po' una svegliata. Sì, è un problema di sistema. Allora, qui c'è un sistema dove le poche risorse pubbliche che sono state destinate a questo tipo di al sostegno delle imprese nascenti che fanno innovazione sono o sotto forma di prestiti da su zero o il venture capital pubblico che fa il co-investimento con il venture capital privato. Io credo che queste non siano forme indovinate, così come credo anche che la legge sulle startup, che ormai ha 3 anni, 4 anni, insomma, per cui qualche risultato magari dovrebbe averlo prodotto. Se il risultato è una crescita dell'11% sulla quantità di denaro disponibile anno su anno o investito nelle startup anno su anno, direi che forse qualcosina da aggiustare c'è. Personalmente credo che la ricetta giusta sia quello di essere molto più aperti a livello internazionale, togliere un sacco di paletti strutturali e burocratici che ancora ci sono e guardare all'ecosistema europeo. Se noi andiamo a vedere le startup italiane che stanno avendo più successo e che crescono più rapidamente, che hanno magari già, diciamo, 1 milione di revenue di fatturato, vedrai, se fai questo elenco, vedrai che più o meno la metà ha la sede già fuori all'estero, capito? Per cui rischiamo anche questa deriva. Se gli investitori italiani non hanno soldi, sono bravi a fare SID quando c'è molto rischio e poco capitale. SID, ricordiamo, il momento iniziale. Iniziale, l'investimento iniziale. Quando la società nella sua fase di rischio maggiore, perché sta nascendo in quel momento, quindi non si sa ancora come risponde il mercato, il capitale richiesto è basso. E lì va bene, cioè ci siamo. Il problema è poi quando queste crescono, che hanno bisogno di trovare dei round di finanziamento più corposi. Non sempre gli investitori italiani riescono a stare dietro questi round. Questi quindi vanno a cercarle all'estero, poi crescono, quindi l'investitore principale diventa straniero, poi quando fanno l'exit il vero guadagno lo prende l'investitore straniero. Oggi abbiamo dei fondi che hanno delle dimensioni già accettabili, per esempio insomma Innogest ha annunciato di recente una raccolta di 85 milioni, interessante, ci sono un passo avanti, ma è un ritmo insostenibile, stiamo crescendo troppo lentamente. Considera 130 milioni di investimento in Italia, 2 miliardi di raccolta in 3 mesi in Europa, capito? È vero che raccolta e investimenti non si possono paragonare, però ti dà la dimensione di quanto sono le differenze di misura. Dacci però un'idea di quello che comunque, nonostante tutto, sta succedendo, perché io vedo che ci sono moltissime start-up, tanti ragazzi che investono tempo, risorse per fare qualche cosa, e molte sono anche delle belle idee. Dobbiamo essere ottimisti, pessimisti, anche perché abbiamo parlato molto di finanza adesso, però c'è tutto il lato delle idee. Assolutamente, no, su quello siamo super ottimisti. Gli italiani sono bravissimi, le start-up che nascono da noi sono mediamente di un livello assolutamente paragonabile con quelle di altri paesi, se non addirittura superiore. Se possiamo sintetizzare con una frase un po' sintetica, se vogliamo sintetizzare con una frase, si potrebbe dire: per fare una buona startup servono il capitale e la esecuzione, la cosiddetta execution. Se non si hanno queste due cose, si rischia l'esecuzione capitale da parte del mercato. Adesso continuiamo il nostro percorso all'interno di alcune startup che abbiamo incontrato durante SMAO, continueremo anche nella giornata di domani. Parliamo di turismo, quante volte abbiamo detto il turismo è il nostro petrolio, ci sono tantissime startup che si occupano di turismo, uno dei trend degli ultimi anni è il turismo dal basso, sfruttando tutte le dinamiche della sharing economy, del crowdsourcing, quindi di informazioni anche che arrivano dal basso per costruire percorsi turistici. Abbiamo parlato con Giovanni Cristiano, che fa parte del team di Tripsy, che è una piattaforma per promuovere il territorio, ancora in una forma abbastanza embrionale, stanno partendo proprio in questi mesi, ma sicuramente l'idea ci dà un senso di quello che sta succedendo anche nel mondo del turismo in questi tempi. Tripsy ha voluto creare una piattaforma web che mettesse in contatto dei viaggiatori con delle persone del luogo, e facendo questo tramite delle esperienze sul territorio autentiche e non convenzionali. Quindi questa è stata la nostra idea, che appunto nasce dalla Calabria, dove c'è un bisogno enorme di turismo, e quindi non a caso è nata insomma dalla Calabria. Queste persone, le persone del luogo, insomma noi le chiamiamo tripster, ovvero gente che ha voglia di promuovere il proprio territorio e soprattutto di condividere le proprie passioni e raccontarle ad altri, insomma far conoscere il proprio territorio. Certo, spesso si dice: sono stato nel tal posto, conoscevo una persona, mi ha portato a vedere posti bellissimi, mi ha portato a pranzo o a cena in posti veramente autentici e non nei ristoranti turistici. Siete calabresi, mi dicevi, ma non state sperimentando questo in Calabria per il momento? Abbiamo diciamo i tripster, la maggior parte dei tripster che abbiamo sono in Calabria e in Emilia Romagna, proprio perché siamo dislocati come componenti del team un po' in Calabria e un po' in Emilia Romagna, e abbiamo tipo 6 tripster in Calabria e ne abbiamo 4 in Emilia Romagna, poi copriamo anche altre 7 regioni d'Italia, quindi sono 9 in tutto, e in occasione di SMAO appunto abbiamo visto che c'è gente che ha voglia di diventare tripster, quindi crediamo che a breve apriremo altre collaborazioni, in particolare con Lombardia e Sardegna, che sono due regioni che al momento nelle quali al momento non abbiamo tripster. Quindi di fatto io potrei diventare una guida. Sì, meglio tripster però. Ah, voi la chiamate Tripser? Sì, Tripser. Vogliamo, ci teniamo tantissimo, perché appunto quando si parla di guida magari c'è già il concetto di guida turistica, e quindi i ragazzi che collaborano con noi non sono delle guide turistiche, sono quindi dei freelance, delle persone comuni che magari anche nel tempo libero, perché no, si danno un calendario alle loro esperienze, e nel tempo libero condividere questa passione o comunque anche il proprio lavoro. Perché faccio un esempio pratico: un tizio che ha un'azienda agricola, per esempio, dove coltiva, che ne so, le olive o l'uva, potrebbe creare un'esperienza con la quale porta dei visitatori nella propria azienda e far vedere come si fa l'olio dalla raccolta fino alla tavola, possiamo dire così, fare una giornata dedicata a questo, uno dei tanti esempi. Allora, Tripsy è una startup, sì. Come ci guadagnate? Allora, Tripsy guadagna con le commissioni, ovvero il Tripser che propone l'esperienza dà autonomamente un prezzo a quell'esperienza, e Tripsy, in base al prezzo proposto, trattiene una commissione che va da un minimo di 5 euro a un massimo di 30. Rimaniamo in Calabria, adesso ci spostiamo in un altro settore, in qualche modo parliamo di qualcosa che ha a che fare col turismo. Il turismo muove persone, anche i bus di linea, soprattutto sulle lunghe distanze, muovono le persone. Allora, questo è un settore che anche grazie alla tecnologia, anche grazie ad internet, sta vivendo una piccola rivoluzione. Ci sono varie start-up che nel settore dei bus, del trasporto su gomma, stanno cercando di proporre delle soluzioni, ne abbiamo parlato anche a 2024. Ecco l'idea di Easy Move, che propone un servizio che si chiama Buspartout. Ne abbiamo parlato con Marco Della Gala. È un servizio web chiamato Buspartout, che mette a disposizione degli utenti finali un sistema per il quale possono inserire la propria tratta desiderata e ottengono come risultato il risultato che viene dall'offerta di tutte le aziende partner di Buspartout e dalla combinazione delle tratte delle singole aziende, anche diverse tra loro. E l'utente può acquistare il biglietto laddove l'azienda utilizzi appieno il nostro sistema direttamente dalla nostra piattaforma, o qualora l'azienda preferisse utilizzare la propria piattaforma di e-commerce, viene reindirizzato sulla piattaforma di e-commerce dell'azienda che offre il servizio di trasporto. Certo, e voi comunque prendete una commissione da questo? Ovviamente. Con sistemi di commissione diversi a seconda che venga fatto il reindirizzamento o se viene utilizzata una serie di funzionalità di gestione della piattaforma di e-commerce e dell'offerta da parte dell'azienda. Adesso concludiamo con una voce femminile, Luciana De Fino, che è fondatrice di Pick Me Up, per il momento una idea che sta diventando società, ma ancora che non ha un servizio sul territorio, ma il servizio inizierà a breve. L'azienda si chiama Pick Me Up, che tradotto è Vienimi a prendere. Per quale motivo? Inizieremo da Potenza. Che cos'è Pick Me Up? È una soluzione di smart mobility flessibile e personalizzata per anziani e per bambini, che attraverso un gadget GPS indossabile, un'app mobile e desktop e un bus ecologico accompagna bambini e anziani al posto nostro. Quindi si rivolge a bambini e anziani, quindi a persone che non possono viaggiare da sole, che devono essere accompagnate, magari in alcuni casi hanno anche difficoltà a spostarsi in una città, perché stiamo parlando sostanzialmente di una città. Facciamo un esempio di come funzionerà. Allora, il contesto è un contesto urbano, cittadino. Abbiamo come target città che hanno abitanti tra i 60.000 e i 200.000, quindi piccoli e medi centri. Come funziona? Il genitore, il parente, acquista il servizio, scarica l'app e riceve a casa un gadget GPS. Il bambino, indossando il gadget, da quel momento diventa tracciabile attraverso l'app. Il genitore, il parente, per prenotare il servizio, utilizza una funzione molto semplice in cui identifica il punto di partenza, il punto di destinazione e l'orario desiderato. A quel punto l'algoritmo di Pick Me Up elabora le informazioni che vengono trasmesse al bus e al suo driver e si occupa dell'accompagnamento in sicurezza, tracciabile ed efficiente dei nostri parenti non autonomi. E io posso anche dire: tutti i giorni alle 8 venitemi a prendere per andare a scuola? Noi lo speriamo, ovviamente. L'utilizzo può essere variegato, può riguardare le attività ordinarie e quelle straordinarie, utilizzato anche in one shot. Quanto costa tutta questa cosa? costa 25 euro al mese, inclusivo del gadget GPS, che è sempre utile anche quando non si è sul bus, e di 4 corse in bundle. Ogni corsa incrementale viene pagata a parte e costa 4 euro. Senti, non pensi possa essere un'idea molto difficile da fare digerire agli italiani? Io penso che gli italiani sono molto più smart di quanto noi siamo abituati a pensare. Ci sono poi delle azioni che devono essere indirizzate alla cultura. Noi vogliamo fare anche questo. Da qualche parte bisogna cominciare e ci sono dei soggetti super sensibili. Noi abbiamo un rapporto di collaborazione con il Comune di Potenza che incredibilmente si è dimostrato interessato a voler sviluppare una soluzione così innovativa e così trasformativa della realtà attuale. Nel caso di Potenza, intanto il servizio quando partirà e soprattutto il Comune che cosa mette a disposizione? Immagino che non investa soldi. No, il Comune non investe soldi, questa è un'iniziativa tutta privata, a carico nostro, ma è chiaro che si è mostrato interlocutore elastico rispetto a tutte quelle richieste che un operatore di mobilità ha necessità di fare. Noi vogliamo partire, anzi partiremo al massimo entro 5 mesi da oggi. Quindi a primavera. A primavera, con il bel tempo. Ed è tutto per questa puntata di 2024, una puntata speciale dedicata a SMAO. Continueremo anche domani nella puntata classica nostra del venerdì. Mandateci qualsiasi tipo di segnalazione al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, questa è la nostra versione podcast. Grazie per averci ascoltato in streaming o di aver scaricato il file MP3. Fateci pubblicità, usiamo il passaparola, il crowdfunding però fatto ad una maniera al passaparola, quindi consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici locali che magari sono un po' poco aggiornati sulle tecnologie, ascoltando di settimana in settimana quello che succede a 2024 capiscono un po' come gira il mondo e molte cose sono inevitabili. La tecnologia è qualcosa che si infila da qualsiasi parte, non ci sono regole che tengono, in qualche modo qualcosa succede, quindi o ci si adatta oppure ci si capovolge. Bene, ci risentiamo nella puntata di domani oppure dipende da quando riascolterete la nostra prossima puntata in podcast. 2024. 21 seconds and we're